in primo piano. Buongiorno, buon sabato Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale prenatalizia, potremmo dire, e ci risentiremo poi più tardi, tra un pochino più di un'ora, per la rassegna stampa italiana, ma intanto occupiamoci di quella internazionale. E allora questa settimana inizio da Le Monde, che ha pubblicato un editoriale sul grande tema delle disuguaglianze. Sappiamo che, certo, se guardiamo i dati e non le famose medie di Trilussa, scopriamo che negli ultimi decenni è diminuita la povertà in generale, sono diminuite le persone che non hanno da mangiare. Poi però, se si vanno a vedere all'interno di queste medie, ci sono appunto delle enormi disuguaglianze nel mondo, all'interno dei paesi e all'interno anche dei continenti, o meglio, confrontando i continenti. E allora Le Monde si concentra su questo, è un po', se vogliamo, una riflessione di fine anno. Il breve articolo si intitola I rischi delle disuguaglianze, lo trovate tradotto da Internazionale nel numero di questa settimana, quello in edicolo da ieri. Vi leggo le prime righe. Insieme al riscaldamento globale, l'aumento delle disuguaglianze è uno dei maggiori problemi dell'inizio del XXI secolo. Dagli anni Ottanta la distanza tra ricchi e poveri non ha mai smesso di crescere, anche se questo fatto era percepito chiaramente dalle classi meno abbienti. Per motivi tecnici e ideologici, la valutazione statistica delle disuguaglianze era rimasta ambigua. Il rapporto sulle disuguaglianze nel mondo del World Health and Income Database invece ha quantificato con precisione questo processo. È un passo indispensabile perché i leader politici capiscano le dimensioni del problema e lo affrontino meglio. E l'ultima parte dice: negli ultimi 30 anni i cittadini più poveri hanno oscillato tra l'astensionismo e il populismo. Ormai il rischio è che le classi medie, la base sociale delle società democratiche, cadano anch'esse nella sfiducia e nell'abbandono. I governi devono evitarlo. E ho trovato queste parole particolarmente centrate anche per l'Italia. Sapete che l'ultimo rapporto, uno degli ultimi rapporti sullo stato del nostro paese, della nostra società, indica proprio questo, cioè un paese che, se guardiamo proprio solo il dato del PIL, d'accordo, di poco, ma è cresciuto, sono cresciute le disuguaglianze ed è cresciuto questo senso di scoramento, di mancanza di speranza nel futuro. A proposito di disuguaglianze, Vox Europe, che sapete è il sito che io consulto sempre, voxeurope.eu, e che fa questo monitoraggio della stampa internazionale, soprattutto sui temi europei, ha pubblicato questo articolo che è stato in realtà pubblicato da Alternative Economique, il magazine francese, che si intitola Crisi degli alloggi in Europa, trovare casa è diventato un lusso. In Italia sicuramente abbiamo avuto una lunghissima crisi dell'immobiliare, ma sappiamo anche quanti appartamenti sfitti, quante case sfitte ci siano nelle grandi città, Milano in testa, e quindi quanto difficile sia trovare a volte casa, sia per la difficoltà che si ha a ottenere un mutuo quando non si hanno, per esempio, dei contratti a lungo termine o non si possono dare delle garanzie, sia per pagare un affitto, perché moltissimi proprietari tengono le case sfitte piuttosto che affittarle a dei prezzi che sono oggettivamente scesi. E questo scenario, in realtà, da Alternative Economique lo proietta sull'intera Europa e spiega che nella maggior parte dei paesi europei affitti e prezzi delle case crescono più in fretta dei redditi e trovare casa è diventata una sfida. E trovate questo interessantissimo articolo, appunto, su tutto gratuito, tradotto da Vox Europe sul sito, appunto, di Vox Europe. E per quanto riguarda un po' le vicende europee, i confronti e l'idea che magari se uno guarda soltanto il numero, la media, si fa un po' ingannare, noi sappiamo che la Germania è la locomotiva dell'Europa, il paese che cresce di più, il paese con la disoccupazione più bassa, però si scopre, per esempio, lo raccontava la Süddeutsche Zeitung questa settimana, che sempre più pensionati in Germania frequentano le mense per i poveri. In 10 anni il numero degli ospiti anziani e pensionati è raddoppiato, raggiungendo quota 350.000. Uno su quattro dei frequentatori di queste mense è un pensionato. Ma c'è di più, la maggioranza degli ospiti pensionati alle mense dei poveri è una donna. Per molte la pensione non basta, vanno alla mensa per risparmiare soldi e poter comprare al supermercato magari dei regali per i nipoti. La povertà in età avanzata è femminile, ha spiegato Ulrike Mascher, che è presidente di una no profit che si occupa dei meno fortunati. È un segnale, continua la presidente, di una crescente povertà in età avanzata in Germania. Sono in tutto 900 le mense dei poveri nel paese, offrono alimenti, pasta, frutta e verdura a prezzo simbolico. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica sono circa 620.000 le persone anziane in Germania che nel 2016 hanno percepito il sussidio di base. Cambiamo leggermente argomento perché l'altro grande tema di questi giorni è stato, naturalmente lo sapete, le elezioni in Catalogna. Se ne è parlato moltissimo su tutti i giornali, molte analisi. Il fatto è che questa è una delle tante crisi aperte che si aggiungono a quelle già aperte in Europa, commentano naturalmente i quotidiani spagnoli. Pensate anche soltanto, abbiamo appena detto, della Germania, così fortunata sul fronte di certi indicatori economici. La Germania, ricordiamoci, cioè in questo momento è senza un governo, non si sa ancora se l'avrà o se dovrà andare a elezioni politiche anticipate. Quindi la questione Catalogna appunto viene trattata, visto che non si sa bene come questo voto, che in realtà non ha delle conseguenze dirette, però è un segnale molto importante che comunque in una consultazione, diciamo, non come era stato il referendum un po' clandestina, sappiamo, con tutti i problemi che c'erano stati causati dalla stessa polizia spagnola, naturalmente per volere del governo di Madrid, non di quello di Barcellona, di rendere difficile le operazioni di voto. Questo invece era un voto assolutamente regolare, l'affluenza altissima, più dell'80%, sottolineata da tutti quotidiani spagnoli, molto più alta di quella delle elezioni politiche, e percentuali che da noi, non so quando è stata l'ultima volta che in Italia è andato a votare l'80% degli aventi diritto. Insomma, vedremo appunto che cosa succederà. E a proposito di crisi, c'è sempre la crisi dei migranti, quella riguarda tutti i paesi, e in Francia il ministro dell'interno Gérard Colomb ha rilasciato parecchie interviste, una anche a una radio RTL, e ha riconosciuto che c'è proprio una nuova linea dura sui migranti, e ha confermato indiscrezioni che avevano spiegato che dal Ministero dell'Interno è partito una circolare per i prefetti dove si pretende, per così dire, più risultati sull'espulsione dei clandestini. E poi c'è anche un nuovo progetto di legge per censire i centri d'alloggio d'urgenza, un po' insomma simile ai nostri CIE. Colomba ha detto: oggi in Francia abbiamo 95.000 richieste all'anno di asilo, questo significa una grande città ogni anno. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2016 le richieste d'asilo sono state 85.700. Il ministro ha evocato un aumento del 14% delle espulsioni nei primi 11 mesi. Però naturalmente pensate anche a chi attende, perché finché si tratta di aspettare o magari di essere bloccati a una frontiera in estate è un conto. Adesso ci sono, e lo hanno spiegato altri quotidiani, alcuni quotidiani francesi come Le Monde e Libération, che addirittura ha messo questa vicenda in prima pagina qualche giorno fa. Ci sono immigrati che cercano di attraversare le Alpi, pensate che cosa può essere in un clima come questo, tanto che il titolo di Libération era Le cime della vergogna. A proposito di governanti in crisi, naturalmente i giornali britannici, moltissimo spazio a queste dimissioni del numero 2 del governo di Theresa May, che sapete è impegnata, lei e il suo governo, nelle difficili negoziazioni per la Brexit. Damian Green, che era appunto il numero 2, il braccio destro di Theresa May, si è alla fine dato le dimissioni, è coinvolto in uno di quegli scandali su molestie sessuali e cose vicine o vicende insomma collegabili a molestie sessuali, dimostrate o no, perché sono accuse talmente gravi che spesso in molti paesi, naturalmente non è il caso dell'Italia, basta il sospetto per far fare un passo indietro al sospettato. E comunque naturalmente questo esponente di un governo conservatore è ora un politico di identificabile come conservatore, ma anche un quotidiano come il Daily Telegraph, che è un quotidiano filo conservatore, dice che questo è uno smacco, non contesta assolutamente l'opportunità delle dimissioni, che c'è tutta nella logica anglosassone, ma è comunque appunto uno smacco per il governo May, perché secondo lui, scrive il Daily Telegraph, il primo ministro si trova di fronte a un anno irto di pericoli e molto difficile. Un'analisi poi abbastanza simile a quella del Guardian, che invece non è un quotidiano filo governativo, non lo è, perché non lo sarebbe neanche se ci fosse un governo di centrosinistra, perché il Guardian sicuramente cerca di mantenersi molto obiettivo, però men che meno può essere filo governativo con un governo conservatore, perché comunque il Guardian è tradizionalmente un quotidiano più vicino alle idee della sinistra. Ultimissima notizia per questa settimana, un pochino più leggera, dall'Economist, che si è dedicato ai giochi di società. Li davamo forse un po' tutti per spacciati con l'arrivo dei videogames e poi di chissà quale altre diavolerie giocabili online, e invece i giochi di società non si sono estinti. Lo scrive appunto il trimestrale dell'Economist 1843, che dice: hanno preso spunto dai videogame e sono diventati sempre più avvincenti. Era l'ultima segnalazione per oggi, come vi dicevo ci risentiremo tra un'oretta per la rassegna stampa italiana, ma intanto comunque buon sabato e già auguri di buon Natale da Giulia Crivelli.